Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo nella seconda ora del programma, soprattutto del TFR, dopo l'esito ieri del Consiglio dei Ministri che ha annunciato, lo ha fatto il Ministro dell'Economia Padoan, i punti cardine del DEF, del documento di economia e finanza, quello che serve, diciamo, come testo, come struttura per poi la legge di stabilità, la legge finanziaria, come si chiama adesso, ma perché anche ieri, mentre il ministro Padoan ha detto l'ipotesi e la misura sul TFR non è presente nel DEF, il Presidente del Consiglio Renzi ha detto no, attenzione, il TFR lo voglio dare. Ne ha già parlato fino a pochi minuti fa Oscar Giannino. Noi cerchiamo di capire anche il fronte che riguarda la previdenza integrativa, perché ci sono vari aspetti in questo TFR, c'è il fronte della liquidità che verrebbe a mancare alle imprese, quindi bisognerà in qualche modo trovare un accordo anche col mondo bancario se si vuole procedere in quella direzione, c'è il tema della tassazione e quindi il TFR che io vado a riscattare, diciamo così, viene tassato come aliquota marginale o viene tassato come adesso tra il 15 e il 9%? E poi c'è il tema della previdenza integrativa, perché 10 anni fa abbiamo messo in piedi una previdenza integrativa che nelle grandi imprese soprattutto aveva come pilastro la quota del TFR, ora bisogna capire cosa potrebbe succedere lì. Questo lo dico come tema della seconda ora. Parleremo chiaramente, continuerà anche il nostro viaggio nei settori produttivi, un viaggio che stiamo facendo da inizio settembre nei settori produttivi di questo paese. Oggi il nostro ospite sarà il gruppo Saint-Gobain, gruppo multinazionale che ha migliaia di dipendenti anche in Italia, per capire dai manager quale sia il polso della situazione, per come lo misurano e anche quali ricette o consigli o elementi di debolezza vedono nel nostro paese. In apertura invece ci occuperemo di questo scontro forse è troppo forte, ma insomma botta e risposta, questo si può dire, tra Francia e Germania, perché cosa è successo? La Francia sostanzialmente dice sì, noi saremo seri sui conti, ma non vogliamo l'austerità e per rimettere il paese sulla strada giusta non rispetteremo gli obiettivi sul deficit fino al 2017. Questa mossa è chiaro che può essere di aiuto all'Italia. Noi abbiamo annunciato ieri che rispetteremo il tetto del deficit al 3% anche quest'anno e che invece il pareggio di bilancio, cioè il deficit zero, lo spostiamo non più al 2015 ma al 2017. Quindi abbiamo detto una cosa molto molto più morbida di quella francese. La Francia ha un deficit alto perché sarà al 4,4% nel 2015, ampiamente sopra i tetti previsti da Maastricht, ha un debito molto più basso del nostro, ci mancherebbe, però qui in gioco c'è il principio, non c'è solo il valore nominale. Detto questo, è arrivata perché la Francia ha espresso questa posizione oggi perché ha illustrato il loro documento economico-finanziario e soprattutto anche quella che sarà la manovra finanziaria. A metà ottobre la Commissione Europea dovrà esprimersi sulla manovra finanziaria francese, ma non è che adesso ci interessi tanto o in maniera specifica la manovra finanziaria francese, ci interessa capire come andrà il braccio di ferro con l'Europa, perché interessa anche l'Italia. È arrivata, dicevo, a stretto giro una risposta di Angela Merkel, del cancelliere tedesco, che ha detto attenzione, la crisi non è alle spalle, non c'è crescita sostenibile senza finanze solide, i paesi debbono fare i loro compiti per il loro benessere. Il patto si chiama di stabilità e crescita perché non può esserci crescita sostenibile senza finanze solide. E poi il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, olandese e vicino alle posizioni tedesche, ha detto attenzione, la Francia come altri paesi deve lavorare più duramente perché deve rispettare le regole del patto di stabilità, riguadagnare competitività, rendere flessibile il mercato del lavoro. Ne parleremo in apertura nel giorno in cui tra l'altro segnalo che abbiamo avuto varie indicazioni che sono arrivate sul fronte delle borse, l'euro è, visto che già me lo chiedete al 349-238-6666, poi c'è il numero per, poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook, dicevo l'euro è sceso a 1,2622, tra l'altro per quello che riguarda il rapporto del dollaro, lo yen è sceso ai minimi da 6 anni sul dollaro, cioè il rafforzamento del dollaro è un rafforzamento generalizzato, e adesso l'euro è anche sotto quota 1,26 a quota 1,25,9. Questa è una buona notizia perché aiuta. Beh, insomma, avere, esportare con un euro a 1,40 sul dollaro o esportare con un euro a 1,25 sul dollaro un po' aiuta. Ancora, la Germania ha collocato 4 miliardi di BTP a 10 anni, di Bund a 10 anni, è un'asta per la prima volta sotto l'1% del rendimento, vuol dire che uno presta i soldi alla Germania e si attende un rendimento inferiore all'1% per 10 anni. Per la prima volta però la domanda non ha, è stata inferiore ai 5 miliardi offerti, infatti ne hanno collocati 4 miliardi e 600 milioni. Si diceva dai mercati, andiamo anche sulle borse, meno 0,50% in questo momento Milano, meno 1 Parigi, meno 0,80 Francoforte, meno 1 Londra e meno 0,80 in questo momento anche l'America. I titoli, Banco Popolare più 1,90, World Duty Free più 1,70 come Mediobanca, l'1,5 Autogrill, l'1,20 di rialzo, la Popolare di Milano lo 0,80 e il rialzo di Unicredit lo 0,50 quello della Popolare Emilia Romagna. Invece tra chi perde, Saipem il 3,70, Jux il 2,80, Prismian il 2,20 come Fiat, il 2% lo perde Ferragamo e Mediaset, l'1,80 Tenaris, l'1,60 il calo di Azimut, di CNH Industrial, l'1,5 quello di Mediolan, ST Microelectronics meno 1 come Eni. Adesso rapidamente le altre notizie in breve. Allora, un po' di pazienza sul TFR, perché adesso vi arriveremo. Io non ho criticato, però vediamo di capirci, non ho criticato l'ipotesi di lasciare il TFR, che il lavoratore possa chiedere il TFR. Ho detto solo che certe proposte vanno fatte un po' più dettagliate, se no la critica che viene mossa al governo di essere un governo di molti annunci è una critica che trova ancora più sostanza, cioè non si può trattare il tema del TFR, che è fondamentale per il secondo pilastro integrativo in questo paese, che è fondamentale per la liquidità soprattutto delle piccole e medie imprese, perché attenzione, sopra i 50 dipendenti, vado a memoria, il TFR non resta in impresa. Però noi sappiamo che il 96% delle imprese italiane ha meno di 50 dipendenti, allora non possiamo far finta di vivere in un altro paese. Che cosa capiterà la tassazione? Cioè, quando una ha le idee chiare è giusto che proponga, ma se dici semplicemente vogliamo il TFR in busta paga 100 euro in più e non si capisce come, in che modo, se andrai a danneggiare le imprese oppure no, beh, insomma, è lecito ed è corretto dire scusate, non abbiamo capito, potete essere più precisi, visto che stiamo parlando dei soldi dei lavoratori e non è un periodo di vacche grasse e neanche di vacche magre, non sono neanche più quelle magre. Vabbè, andiamo avanti. Allora, per quello che riguarda i dati economici a livello internazionale, oltre al cambio, dicevamo, e allo botta e risposta Francia-Germania, oggi c'è un dato in cui vede sostanzialmente l'Europa andare male, ma l'Italia andare bene. È l'indice PMI che misura l'attività del settore manifatturiero. Perché dico questo? Perché nell'area europea la manifattura è scesa ai minimi da 14 mesi, è 50,3 punti a settembre. La cosa importante è che sotto i 50 punti sei in recessione a livello di indice. In Italia però è calato l'indice in Francia e in Germania, l'indice che misura appunto l'attività manifatturiera. In Italia è tornato a crescere e ha superato questa famosa soglia dei 50 punti a 50,7 punti. In Francia è a 48,8 e in Germania a 49,9. Un commento sulle stime di ieri del governo? No, mi sembrano ampiamente condivisibili e ampiamente annunciate, anzi dice meno 0,3% il governo, il PIL quest'anno, la stima ultima che avevamo era meno 0,4, l'anno prossimo più 0,5, più 0,6, è sostanzialmente quello che dicono tutti gli istituti di previsione. È interessante, si fa per dire, come mentre il deficit riusciamo a mantenerlo al 3%, il debito continua a salire. Quest'anno al 131%, l'anno prossimo al 133,4%. Lo ha ricordato ieri il ministro dell'economia Padoan. Il debito del 2014 si colloca al 131,7% e sale nel 15 al 133,7%. Vorrei sottolineare che questo aumento del debito è da ascriversi al deterioramento del quadro macroeconomico, che rende praticamente in nulla la crescita del PIL nominale, pur in presenza ovviamente di una crescita del debito. A partire dal 2016 si riprenderà il ritmo di 0,5 che porterà al 2017 il pareggio strutturale. Allora sì, è chiaro che se il PIL non cresce, questo bisognerebbe spiegarlo però anche ai tedeschi, cioè è inutile continuare a tagliare o cercare di tagliare il deficit e tenere sotto controllo il debito, perché quello che interessa è un rapporto deficit o debito fratto, come si diceva a scuola una volta, il PIL. Se il nostro PIL continua a fare meno 0,3, meno 1,8, più 0,5, c'è una non crescita, una crescita debolissima, è difficile che il rapporto debito-PIL migliori. Puoi tagliare il debito quanto vuoi, ma se il tuo PIL resta sotto zero continuerà a crescere, cioè non ci vuole un genio. Ecco perché diciamo va bene concentrarsi sui conti pubblici, va bene il mantenimento del 3%, va bene la riforma della spesa pubblica, va bene una spesa più efficiente, la riforma del mercato del lavoro, però poi dalla Germania qualche indicazione su misure di crescita, dalla Germania, dal resto d'Europa arriverà prima o poi. A chi mi dice, ecco, adesso va di moda a criticare Renzi, non siete mai contenti. Se diciamo bene di Renzi siamo schiavi del governo, se mettiamo in evidenza, non è una critica sul TFR, è semplicemente, qualcuno mi ha scritto, c'è una proposta, è giusto discuterne, mi scusi. Se fosse una proposta potremmo ragionare degli elementi, non c'è nessuna proposta, c'è l'idea di consegnare il TFR in busta paga, come, quando, con che tassazione, quello già maturato, quello maturando, non si sa nulla, per cui è questa l'obiezione che viene mossa, non nella proposta in sé. Quando avremo la proposta, diciamo, nel suo dettaglio, uno potrà dire, beh, attenzione che c'è questo pericolo, comunque potrebbe esserci questo aspetto positivo, farà ripartire i consumi, è un vantaggio per il lavoratore, non è un vantaggio per il lavoratore, tutto qua. E su questo comunque i sindacati, visto che qualcuno dice ah, lei dà voce alle imprese, a parte che dare voce alle imprese non è ancora un reato in questo paese, ma i dubbi delle imprese sulla liquidità e i dubbi del sottoscritto sono anche i dubbi dei sindacati, nel senso che Anna Maria Furlan, che sarà il nuovo segretario della CISL, designata alla successione di Raffaele Bonanni, la CISL, non la CGL, dice attenzione, basta speculazioni sul lavoro, non vogliamo che i lavoratori paghino più tasse, il TFR è meno tassato dello stipendio, attenzione a non caricarlo in busta paga nell'aliquota marginale. Guardi, mi sembra un'ipotesi un po' confusa ora, bisogna vederci chiaro, perché oggi il TFR è tassato meno dello stipendio dei lavoratori. Non vorremmo mai che portandone una parte in busta paga qualcuno pensasse di tassarlo di più. E poi c'è questa cosa da capire, per le piccole e medie imprese si presume, dalle notizie giornalistiche, un intervento delle banche. Non vorrei che le banche, che prendono denaro dalla BCE allo 0,50, magari pensassero di duplicare, detiplicare l'interesse sui lavoratori. Quindi guardiamo con chiarezza come stanno le cose e poi vediamo se è una cosa a favore del lavoratore o no. E posizione analoga anche della UIL, Angeletti, bisogna ridurre le tasse sul lavoro e continuare a ridurle, ammesso che si sia iniziato, e poi sul TFR capisco l'intenzione di dire che bisogna avere più soldi in tasca, ma non è questa la strada giusta. Tra l'altro anche il presidente della CNA, Daniele Vaccarino, ha detto: attenzione, il problema è il costo del lavoro, il TFR ne fa parte, noi possiamo discutere, però attenzione, la proposta di dare il TFR in busta paga per come è stata posta in questi giorni rappresenta un costo improponibile per le aziende in un periodo di forte carenza di credito, e quella rappresenta una fonte di liquidità. Brutte notizie purtroppo per la Meridiana. Ieri la compagnia, come sapete, ha confermato i 1600 esuberi necessari secondo la società, appunto, per avviare il piano di rilancio del gruppo. Vi sono presidi negli scali di Olbia e Cagliari, e poi dipendenti della compagnia ieri sono a Roma e da questa mattina sono presenti anche nel consiglio regionale sardo per assistere ai lavori della seduta dell'assemblea. C'è una sentenza interessante della Corte di Cassazione. Non è punibile per omesso versamento dell'IVA l'imprenditore che non versa l'imposta all'IVA a causa della crisi finanziaria prodotta da mancati pagamenti dell'unico cliente fallito. Beh, mi sembra una proposta di civiltà. Se tu hai un unico cliente e questo fallisce, è chiaro che hai un po' di difficoltà a pagare l'IVA. Cioè, la sentenza è arrivata ieri, praticamente, la numero 40.394. I giudici hanno annullato con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania, invitando tutti i giudici d'Italia a decidere in questi casi non secondo un principio generale, ma secondo le peculiarità del caso. Nel caso specifico c'era un'impresa che era finta sotto accusa per non aver versato l'IVA, e l'imprenditore si era difeso sostenendo che l'assenza è di dolo, in quanto non aveva pagato l'IVA perché l'unico suo cliente era fallito e non aveva potuto far altro che inserirsi al passivo. Qualche buona notizia arriva dai nostri studenti, non solo quelli post scuola dell'obbligo e diciamo università, che quando possono vanno all'estero, quando possono perché è costoso e non tutti se lo possono permettere, ma arriva anche dagli studenti delle scuole superiori, perché nel 2014 c'è stata una crescita del 55% degli studenti che hanno deciso di studiare all'interno della scuola italiana ma con un programma all'estero di lunga durata. Sono 7.300, pensate, erano praticamente quasi la metà 10 anni fa. 3.200 hanno scelto di trascorrere in Italia alcuni mesi di scuola. Questi sono gli stranieri che sono venuti a studiare nel nostro paese. Allora, inaugurata questa mattina la 54esima edizione del Salone Nautico di Genova, ci siamo già occupati di come va il settore, che è massacrato sul fronte nazionale, da 3 miliardi a 300 milioni o poco più di fatturato, mentre restano i 3 miliardi e passa di export, e domani faccio notare che Focus Economia sarà in diretta dal Salone di Genova. Adesso arriviamo alla Francia, devo però in questo mondo di austerità, di TFR che vuole essere usato per far ripartire i consumi, devo però riaggiornare la rubrica di cui fare volentieri a meno, e la rubrica di chi invece questo mondo non lo vede, vive in un altro pianeta e continua a fare bellamente tutte le cose che venivano fatte in precedenza. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, raccontiamo queste bellissime storie intanto dei dipendenti della Camera del Senato e poi anche di alcuni uffici alla Regione Sicilia e dell'oasi felice per i dipendenti delle partecipate, che per chi non lo sapesse si chiama, non è l'unica, ma si chiama Calabria. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu. Allora, partiamo dai dipendenti delle Camere. Già il nostro GR24 ve l'ha raccontata, ma insomma quello che è successo oggi, cioè la protesta anche dei sindacati, è una riforma straannunciata, ossia il tetto a 240.000 euro come tetto massimo anche per i dipendenti di Montecitorio di Palazzo Madama. Gli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama hanno dato l'ok insieme, è la prima volta che si arriva a una decisione congiunta sulla materia. Per cui cosa capiterà di drammatico, tant'è che la Presidente della Camera, Laura Boldrini, si è offesa per le reazioni che gettano un'ombra sull'immagine del dipendente della Camera. Insomma, intanto la decisione presa oggi a regime porterà un risparmio di 97 milioni in 4 anni. Per cui, per carità, non è con quelli che risolviamo l'economia, ma è un segnale che si dà. Ma dopodiché, di cosa stiamo ragionando? Nel senso che in 4 anni tutti gli stipendi dovranno scendere per scaglioni annuali, cioè si va dal più alto, che 240.000, che potrà essere 240.000, cioè i consiglieri, dagli attuali 358.000 euro l'anno. Oh, ma 358.000 euro l'anno non li pigliano gli amministratori legati con grandi responsabilità in importanti gruppi? Vorrei sapere qual è l'enorme responsabilità di un consigliere della Camera o del Senato. Ma detto questo, da 358.000 scendi a 240.000. Bene, ma nessuno parla di licenziamenti alla Camera, nessuno parla di esuberi, nessuno parla di esodati alla Camera o al Senato. Quindi di cosa ti lamenti? E poi l'ultimo livello, quello degli assistenti parlamentari, scenderà da 136.000 euro lordi a 99.000 euro lordi, visto che il livello più basso non è poco. Vedo che il tecnico di regia dice averceli, 90.000 euro lordi. Andamento identico al Senato, da 370.000 a 240 e da 142.000 a 90.000. Eppure i sindacati hanno contestato i sottotetti, chiedono un ripensamento che coniughi la comune esigenza di rigore con la necessità di preservare l'efficienza dell'amministrazione della Camera e il rispetto dell'ordinamento. Allora, non ho capito perché deve coniugare cioè il fatto che hanno abbassato lo stipendio rischia di mettere in discussione l'efficienza dell'amministrazione della Camera. Non ho capito, perché se tu passi da 350 a 240 vuol dirmi che lavori male? No, perché letta così sembra quasi un ricatto, cioè sì, va bene il rigore, però bisogna preservare l'efficienza dell'amministrazione della Camera. Allora cosa vuol dire? Che se tu scendi da 130 a 90.000 sei meno efficiente? Ma non so, ma nel mondo del privato, ma voi ve lo immaginate un dipendente, un operaio, un impiegato che va dal suo datore di lavoro e dice: beh, se non mi dai l'aumento o se mi metti con un'altra forma contrattuale io lavorerò in maniera meno efficiente. Io vorrei vedere poi l'esito di questo colloquio nell'ufficio del personale o dell'imprenditore o... Vabbè, per tirarci sul morale andiamo in Sicilia, dove a Palermo c'è una... Qualcuno se lo ricorda Calvino, grandissimo. Veramente la Sicilia raggiunge dei livelli che tu neanche immagini, perché adesso si scopre pure che paga la Regione Sicilia, e non poco, 500.000 euro l'anno, un ufficio che non c'è. Non c'è. Perché lo dice praticamente uno dei funzionari di questo, dell'ufficio che non c'è, che potrebbe essere un romanzo di Calvino, l'ufficio che non c'è. Lei si chiama Gloria Cammarata e racconta, sono 9 collaboratori, di lavorare teoricamente nell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti. Però in realtà non fanno nulla, ci giriamo i pollici, 3 ore in senso orario e 3 ore in senso antiorario. Bene. A noi ci gira qualcos'altro, dottoressa Cammarata, quando sentiamo che lei si gira i pollici 3 ore in senso orario e 3 ore in senso antiorario, ma non ce l'abbiamo con lei, perché no, non sono esattamente i pollici, ma insomma il punto vero è che questo ufficio non funziona perché la regione deve nominare il garante dell'ufficio diritti dei detenuti. Senza il garante non può partire l'attività dell'ufficio, e intanto la regione non lo nomina. Però l'ufficio, che ha 2 sedi, quindi si girano i pollici in senso antiorario 3 ore, in senso orario 3 ore, a Catania e a Palermo, chissà se sono sincronizzati, perché andiamo anche alle Olimpiadi, se girano in maniera sincronizzata i pollici in senso orario a Catania come a Palermo e in senso antiorario a Catania come a Palermo, comunque costa 500.000 euro l'anno. Ma volete mettere l'osi felice per l'esercito di dipendenti pubblici della Calabria? Oh, la Calabria spende 300 milioni, sono più o meno 150 euro per tutti i calabresi, neonati compresi, per retribuire i dipendenti ogni anno delle società partecipate e dei vari enti pubblici e di diritto privato. Allora, ci sono 9.200 dipendenti, che sono il triplo del personale regionale. Le partecipate sono 22, hanno 1.800 dipendenti. Poi ci sono quelle che manco ti comunicano i dati. Per esempio, l'aeroporto Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto secondo la Camera di Commercio ha 31 dipendenti, ma non ha comunicato i dati alla Corte dei Conti. Interessante, perché l'aeroporto Sant'Anna Isola di Capo Rizzuto perde, ha perso nel 2008 1.3 milioni, nel 2009 1.1 milioni, nel 2010 800.000 euro e via così. Avrebbe teoricamente 31 dipendenti. Poi c'è l'Ocride Sviluppo, che sembra più un partito, che comunque, che di fronte, a fronte di 5 consiglieri di amministrazione, ha 3 revisori, 2 sindaci supplenti, dichiara un unico dipendente. Ma pensa che bello, tu hai 5 consiglieri di amministrazione, 3 revisori, 2 sindaci supplenti e un unico dipendente, tutta l'attenzione su di lui. Magari fa pure causa per mobbing. Allora, nel 2012 ecco, ha perso 126.000 euro. Per farla breve, le società partecipate della Regione Calabria hanno perso 2 anni fa in tutto quasi 12 milioni di euro. La Corte dei Conti scrive: emerge dall'analisi dei dati disponibili un quadro preoccupante e pericoloso che impone la necessità di attivare piani di ristrutturazione e razionalizzazione. È del tutto evidente che con questi dati di bilancio il fallimento del sistema delle società partecipate nella Regione Calabria è solo questione di tempo. E questo sarà uno dei temi che, se vorrà, affronterà il successore dell'ex governatore Scopelliti, condannato a 6 anni per abuso d'ufficio e falso, quando metterà in moto, si spera, una spending review. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, usciamo un attimo dalle partecipate italiane, da quello che dice la Corte dei Conti, dalla protesta, dal grido di dolore che arriva dai dipendenti della Camera, a cui non siamo insensibili, infatti dovrebbero vergognarsi, la Camera del Senato, e andiamo a quello che è successo oggi. In realtà non abbiamo ben capito lo scaturito, perché i numeri francesi erano già usciti. Insomma, sostanzialmente il ministro delle finanze francese Michel Sapin conferma tutto il ritocco verso l'alto del deficit francese, quindi quest'anno al 4,4% del PIL, al 4,3% l'anno prossimo, solo nel 2017 potrà arrivare sotto il 3%, come invece l'Italia tenterà di fare anche quest'anno. E dice Sapin: attenzione, saremo seri sui conti, ma no all'austerità. La croissance sarà ancora très limitée en 2014. La crescita sarà ancora molto limitata nel 2014, più 0,4% come avevo indicato qualche settimana fa. La ripresa comincerà ad accelerare molto progressivamente solo a partire dall'anno prossimo, segnando più 1% nel 2015. Alcuni direbbero che questo scenario è ottimista. Queste previsioni sono in linea con quanto pubblicato qualche giorno fa e inferiori al consenso degli economisti reso noto a settembre. Sono dunque delle ipotesi estremamente realiste sulle quali costruiamo il progetto della legge di bilancio. Ci assumiamo la responsabilità dei bilanci, ma rifiutiamo l'austerità. La conseguenza è che il deficit si attesterà al 4,4% nel 2014, al 4,3% nel 2015 e tornerà sotto il 3% nel 2017. Oh, l'avessimo detta noi una cosa del genere, a parte che non ho mai capito perché né Monti né Letta e anche Renzi non abbiano un po' più di coraggio nel dire: va bene i conti, va bene fare i compiti, ma no l'austerità. L'avessimo detta noi. E comunque, poco dopo, Angela Merkel dice: attenzione, non c'è crescita sostenibile senza finanze solide. Oggi ha fatto veramente la maestrina. I paesi devono fare i loro compiti per il loro benessere. Veramente, tanto il benessere unico è il tuo. Comunque, lasciamo stare, non siamo ancora al punto in cui si possa dire che la crisi è alle nostre spalle. Poi è arrivato anche il presidente dell'Eurogruppo, Aaron Dijsselbloem, a dire: la Francia deve lavorare più duramente. Sapin ha anche detto: l'Europa si assuma le sue responsabilità sulla crescita. Francia e Banca Centrale Europea hanno fatto la propria parte, ora tocca alla Germania. Il messaggio infatti è diretto ai paesi in surplus, cioè quelli che sono ricchi, che stanno bene, che chiuderanno il deficit a zero, a cui si dice: beh, fate qualche investimento in più e aumentate il potere d'acquisto dei vostri cittadini, così consumando un po' di più ci sarà un vantaggio anche per i paesi che invece in questo momento devono tagliare, e tagliare le spese, tagliare i consumi, magari aumentando le tasse. Marco Mussanè, corrispondente Sole 24 Ore a Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Sì, già tu ci hai raccontato in maniera abbastanza chiara quanto difficile sia riformare la Francia. Parlavamo due settimane fa della vicenda Air France, dello sciopero dei piloti. Però insomma, la risposta a stretto giro di Angela Merkel vuol dire che forse Sapin ha colto nel segno, cioè non è sembrata solo una dichiarazione di intenti. Può essere il segnale di un nuovo atteggiamento del governo Hollande oppure no? No, mi sembra che non ci siano particolari cambiamenti nella posizione del governo Hollande, cioè che i governi francesi con la presidenza Hollande hanno assunto almeno da, diciamo, un anno a questa parte, cioè dall'inizio del 2014, e cioè di mettere in qualche modo, dire, il recupero di competitività e il sostegno all'economia in posizione prioritaria rispetto alla riduzione dei deficit e al risanamento dei conti pubblici. Da questo punto di vista non mi sembra che, appunto, diciamo, almeno dall'inizio dell'anno in poi ci sia una uniformità di presa di posizione, quindi non ci sono cambiamenti particolari. Il problema è che i conti non tornano e che Parigi, come spesso accade, gioca un pochino con i numeri. Perché dici questo? Senso, perché il cavallo di Troia francese per riuscire a strappare il via libera di Bruxelles e di Berlino all'ennesimo rinvio nella riduzione del deficit si chiama circostanze eccezionali, e sono quelle previste dai trattati in presenza delle quali è possibile derogare dagli impegni dai vincoli di bilancio. Parigi si riferisce esplicitamente a una crescita molto debole, a una bassa inflazione, che è una situazione che dura ormai da 3 anni e che presumibilmente durerà ancora almeno nel 2015, per loro è stato di circostanze eccezionali che consentirebbero di derogare alle regole. Il problema è che c'è un'altra, come ormai molti vostri ascoltatori sanno perché ne avete parlato più volte, c'è un altro elemento che è quello da prendere in considerazione, che è quello del deficit strutturale, su cui ormai si concentra l'attenzione anche della Commissione, e cioè il deficit al netto degli elementi congiunturali, diciamo, quindi il deficit che un paese dovrebbe riuscire a conseguire grazie alle proprie riforme strutturali, indipendentemente dall'andamento della congiuntura. Ed è qui che i conti non tornano più, perché nella finanziaria presentata oggi il deficit strutturale francese, che è stato del 2,5% del PIL l'anno scorso, scende al 2,4% quest'anno e al 2,2% l'anno prossimo, e poi molto lentamente dovrebbe azzerarsi nel 2019 rispetto al previsto 2017. Allora, questa, diciamo, lentezza nel ritmo di riduzione del deficit strutturale dimostra chiaramente che non ci sono solo e tanto elementi esterni a giustificare le decisioni del governo e quindi la bassa crescita, quanto un ritardo forte nel varare le riforme strutturali che dovrebbero essere fatte. Per cui, ma a me interessa a questo punto, la Francia ha più di una responsabilità, così come c'era l'Italia per non aver fatto le riforme in questi anni, ben inteso, non voglio... se si riesce ancora a fare un ragionamento, uno non è o a favore della Germania o a favore dell'Italia, uno può essere contro l'Italia per alcune cose e contro la Germania per altre, e a favore dell'Italia, a favore della Germania. Anche nel caso francese, un conto è dire l'atteggiamento dell'area euro è un atteggiamento recessivo e te lo dimostrano i numeri, siamo l'unica area economica al mondo che si sta beccando la seconda recessione o la seconda stagnazione. Altra cosa è dire in Francia va tutto bene, la Francia ha fatto meno riforme se possibile anche di noi. Quanto pesa Marine Le Pen in questo, diciamo, atteggiamento del governo Hollande? È evidente che la situazione politica interna rende ulteriormente complicato per il governo e per Hollande cambiare questo paese. Questo è già un paese dove non puoi toccare praticamente nulla, è un paese di lobby, di corporazioni, di sindacati apparentemente poco forti, perché hanno un tasso di iscritti tra i più bassi del mondo occidentale, ma in realtà molto presenti soprattutto e molto forti soprattutto nel pubblico impiego. Quindi ed è evidente che nel momento in cui tu hai un'estrema destra molto forte che si sta ulteriormente rafforzando e che è in grado di intercettare tutti i malesseri, i malumori della pancia del paese, è evidente che l'obiettivo delle grandi riforme diventa un obiettivo molto complicato da raggiungere. Devi giocare a questo punto in difesa, fingendo di attaccare, in realtà giochi in difesa cercando di, come dire, conservare, mantenere quello che puoi. Sì, fa notare un ascoltatore, devo dire molto giusto a mio avviso, che se l'Italia avesse avuto la possibilità di fare 4,4% di deficit, cioè un punto e mezzo in più, che sono circa 22 miliardi di PIL, perché un punto e mezzo di PIL sono 15 miliardi, sui 22-23 miliardi, con 23 miliardi magari anche noi facevamo più 0,4% di PIL, perché li mettevi tutti quanti in busta. Beh, no, perché sai, è facile dire. Però la Francia, ho capito, sì, però non possiamo fare un ragionamento, no. Scusami se mi penso, non possiamo fare un ragionamento che svincolato da un contesto più generale, sia diciamo politico sia temporale. Cioè, l'Italia è un paese che non ha, come dire, fondamentalmente alcuna credibilità in Europa. È chiaro che devi ricostruirla, per ricostruirla sei costretto a raggiungere lo studente somaro è quello che viene interrogato più volte, ha torto, ha ragione, una credibilità invece ce l'hanno, si possono permettere di fare tutto qua. La Francia si sta spendendo male il credito che ha accumulato in tanti negli anni. Hai ragione. L'Italia sta cercando di conquistare faticosamente il credito che ha perso. Tutto qua, sono due situazioni molto, molto diverse. Oltre ad avere noi un debito al 130% del PIL, la Francia invece lo, se non ricordo male, al 98%, qualcosa del genere. Però hai ragione, un po' come capitava a scuola: lo studente che è andato sempre bene ha un trattamento, viene interrogato un po' meno, ha un trattamento. No, prima di dargli un 5 ci pensi due volte, è così purtroppo. E invece lo studente che era classico per non studiare viene interrogato più spesso e deve dimostrare qualcosa in più. Sono perfettamente d'accordo su questo, la variabile a quel punto però appunto è di credibilità politica, non solo di fondamentali macroeconomici. Grazie a Marco Mussanei, in collegamento con noi da Parigi. Sette e 52 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa rapidamente oggi, giornata priva di enormi spunti, meno 0,80% Milano, meno 0,90 Francoforte, meno 1,15 Parigi, meno 0,90 Londra, meno 1% l'America. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. A te il commento unico. Hicket Nunc, però faccio solo notare una cosa: Zalando ha debuttato a Francoforte, la piattaforma di vendita online, ha fatto il botto anche stavolta, più 12%, 5,3 miliardi il valore del collocamento. La giornata. Sì, allora, per quello che riguarda la giornata, è stata una giornata, come dicevi tu, senza grandi spunti. I dati sul settore manifatturiero europeo arrivati in mattinata hanno deluso un po' le attese e per cui le borse si sono orientate fin dalla mattinata in territorio negativo. L'apertura in rosso di Wall Street ha fatto il resto, portando ulteriori vendite sui titoli europei. Non ci sono grandi spunti, abbiamo visto a Piazza Affari che tutti i titoli più ciclici, a partire da Saipem, ma anche Fiat, Prysmian, Fiat poi forse un discorso a parte, però hanno tutti ceduto. Si sono ben comportate invece le banche e i titoli che possono approfittare dell'euro debole come World Duty Free e Autogrill. E allora diamole queste variazioni percentuali: World Duty Free, che tu citavi, più 1,82%, Autogrill più 1,20%, Mediobanca, appunto le banche oggi abbastanza bene, Mediobanca più 1,50%, Banca Popolare più 1,40%, Milano più 1%, Unicredit più 0,70 e basta, perché Intesa perde lo 0,30%, UbiBanca perde lo 0,70%, in debole, come tu ricordavi, l'energia, in senso lato, Saipem meno 4%, ma abbiamo visto andare a essere debole anche Eni meno 1,40, Enel Green Power meno 1,30 ed Enel meno 1,24, Jux poi ha perso il 3, Fiat il 2,5, Prismian il 2,40, Medes il 2,1, Tenaris meno 2, come anche Ferragamo, Telecom Italia meno 1,80 come CNH Industrial. Abbiamo 40 secondi scarsi per, sono confermate le dimissioni del numero di Endesa? Sono confermate, sostanzialmente sono confermate. Ok, quindi Andrea Brentanzi è dimesso dal ruolo di amministratore delegato di Endesa, che è la contratta spagnola di Enel. E per quello che riguarda i migliori e i peggiori, visto che ho 20 secondi, Go Internet più 26%, qui effetto anche Zalando, e poi Neurosoft meno 5,59%. Va detto che Go Internet ha diffuso i dati ieri e quindi beneficia anche dei dati diffusi con questo 26%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. E allora, dicevo, continua il nostro viaggio, il viaggio di Focus Economia in chi rappresenta diversi settori produttivi del paese. Abbiamo visto e analizzato come vanno, vado a memoria ma ogni volta devo farlo, il settore della ceramica, il settore vitivinicolo, dell'abbigliamento, anche in questo caso abbiamo visto e analizzato anche settori che hanno a che fare per esempio con l'alimentare, il lattiero caseario. Perché così diversi tra di loro? Perché proprio da settori diversi possiamo avere o dei comuni denominatori, e uno su tutti l'abbiamo visto, i consumi sono crollati, penso anche alla nautica, i consumi interni non sono neanche lontanamente vicini ai livelli del 2007-2008, con la conseguenza che la stragrande maggioranza del fatturato, in chi può, viene fatto all'estero. E allora, dicevo, continua il nostro viaggio. Oggi il nostro ospite è il presidente del gruppo Saint-Gobain Italia e anche delegato generale per Grecia, Libia, Turchia ed Egitto, Gianni Scotti. Buonasera. Buonasera. Saint-Gobain, per chi non lo sapesse, è un gruppo francese, un gruppo vecchissimo, è nato nel 1665, è presente in 64 paesi del mondo e ha complessivamente 190.000 dipendenti, 42 miliardi di euro di giro d'affari, e l'anno scorso ha chiuso complessivamente come consolidato con un utile netto di quasi di più di mezzo miliardo, 595 milioni. In Italia, dove è presente anche in questo caso da più di un secolo, da fine 800, dal 1889, ha 31 stabilimenti per un totale di 3.700 dipendenti con un fatturato di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Di cosa si occupa? Fa materiali innovativi, l'attività vetropiano, materiali ad alta prestazione, ceramiche, plastiche speciali, gli abrasivi, poi prodotti per la costruzione, la distribuzione edilizia e poi il packaging. Quindi voi avete una visione molto ampia su quello che noi potremmo chiamare, diciamo, il settore delle costruzioni, ma non inteso solo come il costruttore in senso classico. Allora, intanto mi dia, visto che lei ha anche la responsabilità per Grecia, Libia, Turchia ed Egitto, una fotografia sulla congiuntura economica in questo momento, per come la vedete voi. C'è qualche segnale di ripartenza in Italia? E se non in Italia, in uno degli altri paesi di cui lei ha la responsabilità? Beh, diciamo che i miei paesi sono particolarmente diversi, cioè io ho una Svizzera che ha attraversato gli ultimi anni senza nessun segno di cedimento economico per arrivare a un paese come l'Egitto, dove la rivoluzione ha parecchio inciso negativamente. Si stanno riprendendo lentamente in Egitto, la Turchia ha attraversato qualche momento di turbolenza a causa di qualche turbolenza politica, le elezioni, qualche protesta nei confronti del governo Erdogan, che si è tutto risolto con una grossa vittoria del governo in carica, che sta ridando quella dinamicità che era tipica di questo paese degli ultimi anni. E poi, se torniamo alla nostra Italia, direi che vedere segni di movimenti di ripresa o di miglioramento è proprio difficile, direi che in questo momento non se ne vedono. Quindi, perché il settore costruzioni, visto che voi fornite anche tanto materiale, il settore costruzioni è uno dei primi, dei più sensibili, di quelli dove si nota prima un eventuale cambiamento del ciclo, ma mi dice... calma piatta, nel senso che non si nota nessun segnale. Dov'è che notate invece a livello di settori in cui siete presenti, quattro vostri poli di attività, notate le maggiori difficoltà e invece magari in altri settori c'è per carità una difficoltà, ma con prospettive forse più rosee? Ma guarda, le cito due casi positivi, là dove noi forniamo vetri auto, ci sono casi di veramente belle cose, come per esempio lo sviluppo importantissimo di Maserati e di altri alcuni modelli. Diciamo che la situazione dei vetri per auto in Italia è in miglioramento, lo stile, la bellezza del prodotto italiano, cito ancora una volta Maserati, sta conquistando il mondo e quindi questo ci sta facendo fare delle belle cose. Un altro settore simpatico dove noi tra l'altro stiamo per inaugurare un grande investimento per un nuovo forno del valore importante di più di 60 milioni è nelle bottiglie, le quali seguono il buon trend della viticoltura italiana che evidentemente beneficia di un'attività verso l'esportazione importante. Purtroppo invece, se dobbiamo parlare di tutto ciò che va sul mercato interno, quel discorso che lei faceva inizialmente su una riduzione dei consumi e così via, c'è, si sente, pesa, e direi che il settore delle costruzioni è quello probabilmente maggiormente afflitto. Sì, anche perché, come dicevo in apertura, alcuni settori possono diversificare, diciamo così, verso l'export. Tu puoi decidere nel vino, nel latte, nelle navi, nella cantieristica, per meglio dire, di puntare più sui mercati dove ci sono i soldi e abbandonare un po' di più il mercato interno italiano. Ma in altri settori è molto difficile. Nel caso delle costruzioni non è che tutte le imprese, anzi sono pochissimi i gruppi in Italia che possono dire vabbè, ci concentriamo più sugli appalti internazionali e restiamo meno sul fronte degli investimenti in costruzioni interni. Non tutti hanno questa possibilità. E questo va detto. Senta, come manager in questo caso, visto che appunto lei ha una grossa esperienza internazionale, si parla molto di riforme, il paese deve cambiare, anche oggi ricordavamo Angela Merkel ha detto i compiti vanno fatti, e vabbè, è la riforma del mercato del lavoro, noi chiediamo da tempo una riforma delle burocrazie per le imprese, ma se lei dovesse individuare uno o due temi che penalizzano realmente la capacità di fare imprese in questo paese e quindi anche di assumere o di mantenere l'occupazione, quali mi citerebbe rispetto ad altri paesi a noi abbordabili, cioè non paesi sideralmente distanti da noi? Beh, insomma, facciamo così, io le parlo per l'esperienza di un grande gruppo, cioè quindi un gruppo che ha al suo interno la completa osservanza di ogni tipo di regole e di tutto il resto, quindi voglio dire un modo di comportarsi da visione su grandi numeri anche. Allora, io direi che un paese come l'Italia non può essere visto drasticamente diverso da un paese come la Francia piuttosto che la Spagna o la Germania. Certo, è chiaro che all'interno del nostro mondo c'è una situazione di burocratizzazione che penalizza per esempio l'apertura di una nuova sede produttiva, uno spazio nuovo, cioè i tempi per ottenere permessi e visti per una nuova iniziativa diventano lunghi e quindi in questa maniera può essere anche negativo per l'insegnamento di un gruppo che può decidere se venire in un paese oppure nell'altro. Però alla fine questo rimane un paese da 60 milioni di consumatori, una delle principali economie al mondo e quindi se un gruppo vuole venire in Italia certi tipi di problemi burocratici poi insomma li si va a superare. Diciamo che non è certo il costo del lavoro che può spaventare un grande gruppo in Italia oggi se lo si compara col costo di lavoro di altri grandi paesi sviluppati occidentali. Direi che sì, la riforma del lavoro invece è qualche cosa di importante anche perché, insomma, voglio dire, la capacità, la possibilità di assumere e poi rapidamente di poter intervenire negli investimenti nel capitale umano per adeguare le proprie dimensioni a una situazione di mercato che può essere variabile in funzione di tanti fatti, sì. Evidentemente è qualche cosa che in Italia ancora vacilla un po'. C'è troppa, quindi troppa burocrazia e anche troppa rigidità. No, interessante quanto lei diceva, con la visione appunto di una multinazionale e di un grande gruppo internazionale, non è il costo del lavoro a rendere l'Italia meno competitiva rispetto altri paesi a noi simili. Grazie al presidente di Saint-Gobain Italia e nonché delegato per Grecia, Libia, Turchia, Svizzera ed Egitto, Gianni Scotti. Grazie a lei. Il TFR, dicevo, ultima parte di Focus Economia, e ne parliamo con, visto che 4 ottobre Radio 24 compie 15 anni e ci sarà anche una grande festa qui a Sole 24 il 15 ottobre, ne parliamo con chi, se conoscete la radio da un po' di anni, è stanco una voce storica di questa radio, Marco Lo Conte del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. Allora, TFR, abbiamo elencato in questi giorni vari dubbi che sono sorti, faccio la lista velocissima. Come le imprese potranno ripianare i 23 miliardi o giù di lì o la metà, non si capisce ancora, che usciranno, è liquidità che usano invece che indebitarsi in banca. Secondo aspetto, come verrà tassato il TFR? L'aliquota marginale finirà nell'aliquota marginale, cioè nella parte più alta delle tasse che paghi, o come adesso avrà una tassazione agevolata che, se non ricordo male, va dal 15 al 9, esatto, al 9%. E quanta parte, tutto insieme. E poi c'è un tema che su cui vorrei il tuo approfondimento. Insomma, negli ultimi 10 anni noi abbiamo raccontato anche in questo programma, fu il sottosegretario Brambilla, se non ricordo male, che il TFR andava usato, c'era la legge per questo, per crearsi una previdenza integrativa. Allora, quali sono i rischi lì? Ma non è che ce l'abbiamo con l'idea del Premier Renzi, è che dobbiamo capire esattamente come si muova questa ipotesi del TFR. Prego Marco. Ma partiamo da quest'ultimo punto. È chiaro che se io erodo per il mio presente, quello che ho risparmiato per il mio futuro sarà meno sicuro, meno tranquillo, e quindi la rendita di secondo pilastro, quella che sarà erogata del mio fondo pensione, sarà più bassa. E quindi avrò, come dire, inizio a smontare qualcosa che ieri, oggi smonto quello che ieri ho montato, sempre che rimanga questa proposta che preveda la libera scelta del lavoratore di tenere metà del TFR nel fondo pensione, per esempio, e l'altra parte nel prenderlo subito. È chiaro che diciamo è inefficiente in questo senso, si crea un ulteriore problema, non sarà più tanto utile il secondo pilastro evidentemente se toglieremo denaro. Poi c'è un altro problema, allora il TFR resta in azienda soltanto nelle piccole e medie imprese, cioè nelle aziende con meno di 50 dipendenti. E in queste imprese la penetrazione dei fondi pensione è molto bassa, perché sono imprese piccole, perché il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente è molto stretto. Ci sono logiche differenti rispetto alla grande impresa, in cui si può prospettare il fondo pensione, cioè la libera scelta del lavoratore è meno problematica, anche perché il TFR non se la tiene l'azienda con oltre 50 dipendenti, ma va allo Stato. Ricordiamoci sempre che l'altro ieri, cioè nel 2007, lo Stato ha detto: va bene, metà del TFR, beh, insomma, circa 6 milioni l'anno, me lo prendo io come tassazione. 6 miliardi l'anno me lo prendo io, Stato, per i miei bisogni correnti. In realtà volevano fare dell'infrastruttura, era stato istituito un fondo tesoreria presso l'INPS. Alla fine di questo fondo tesoreria non c'è traccia nei bilanci dello Stato, è finito nella disponibilità di cassa dello Stato per pagare gli stipendi, per pagare i trasferimenti agli enti locali, di tutto di più, e sono soldi che escono dalle buste paga dei lavoratori e che nello Stato poi valgono come debito, perché poi devono essere restituiti quei soldi, certo, rivalutati quando i lavoratori andranno in pensione. Insomma, o lasceranno comunque quel luogo, quel posto di lavoro. Si peggiora, diciamo, si complica ancora di più questa divisione tra piccole imprese e impresa di dimensioni superiori, con evidentemente una maggiore pressing aggiuntivo magari sul lavoratore che vorrebbe magari prendere dei soldi subito dal proprio TFR e si troverebbe di fronte a un datore di lavoro che lo guarda e gli dice: ma io non riesco ad avere credito dal certo. mondo bancario per i miei progetti. Hai fatto bene, Marco, a mettere in evidenza anche un altro aspetto, perché noi giustamente ci concentriamo sempre sulla liquidità che TFR rappresenta per l'impresa, ma non perché sia un dovere dell'impresa utilizzarla. Abbiamo solo detto, beh, visto che vale 23 miliardi di liquidità, in realtà un po' di meno perché c'è la parte delle grandi imprese, almeno spiegate alle imprese piccole, medie, come potranno sopperire alla liquidità che viene meno, e quindi se ci sarà un accordo con il mondo bancario, per esempio, per avere la quota parte del TFR che ti viene riscattata, diciamo così, dai lavoratori, la potrei avere. Ma poi c'è il tema molto grosso delle grandi imprese, dove i fondi pensione sono partiti, e sono partiti in maniera anche consistente in molte categorie, e questi soldi tra l'altro sono finiti nella parte che riguarda la tassazione nelle casse dello Stato. Visto che ne stiamo parlando, ma siamo in conclusione, come va il secondo pilastro della previdenza integrativa complessivamente dato? Prego. Beh, allora, in termini di adesioni non sta avendo un grande successo, perché c'è ancora certa disaffezione, soprattutto c'è la percezione che qualcosa domani debba cambiare, insomma c'è un rischio politico, un rischio normativo in evoluzione che scoraggia. Dall'altro punto di vista, quello della gestione finanziaria sta andando particolarmente bene, perché i mercati vanno particolarmente bene da diversi anni. Chi vuole avere un profilo più aggressivo, l'anno scorso vedevo linee che hanno guadagnato dal 10 al 15 al 20%, ma anche linee bilanciate 50-50 hanno fatto dal 12,89%. Ne ho vista una recentemente che mi riguarda direttamente. Ma al di là di questo, il punto è che chi vuole invece avere una linea garantita, vuole avere un rendimento garantito, ha a disposizione una linea garantita, per cui i fondi pensione sono molto efficienti e sarebbe un peccato buttare via tutta questa efficienza in ragione di un presente stringente. Allora io dico, noi stiamo ragionando su delle ipotesi, vedo molti messaggi, non perché ci divertiamo a discettare, a speculare, ma perché non si sa ancora nulla. Cioè c'è una dichiarazione del Presidente del Consiglio che dice: no, lo voglio fare, dovrebbero essere in media 100 euro, il Ministro dell'Economia Padoan gli ha detto no, non rientra nel DEF, ma vediamo poi cosa capiterà, e stiamo ragionando, stiamo mettendo in guardia per far capire a tutti, si può fare, certo che si può fare, attenzione che c'è qualche caveat, c'è qualche se e qualche ma, e poi bisogna essere consapevoli delle conseguenze, dopodiché tutto il resto pertiene alla scelta politica. Grazie a Marco Loconte. Grazie a voi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani per un'altra puntata dalle 17 in poi di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.